vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 14 di Ratto di Campagna e Topolino di Città, il programma di Radio Big World che ormai lo sapete, su via, mettete le pecore, lasciatele in pace, ora partoriranno e ci mangeremo pure l'agnellini in quantità industriale e... lasciate da parte le pecore, facciamoci una doccia, rivestiamoci un po' come faceva Machiavelli per prepararci a incontrare la città, la vita metropolita, il modo di essere alla moda, fighi, di parlare secondo le ultime tendenze. E questo tipo di informazioni io non sono in grado di darvele perché la pecora mi ha partorito poco fa e pertanto ci rivolgiamo alla capitale, a quelli che ci guardano dall'alto in basso e dicono poveretti questi come sono nel passato, oggi che si parla tanto di modernità, e pertanto Radio Big World ha la sua guida, ha il suo angelo metropolitano che ecco lei che mentre noi facevamo debiti per comprarci una Ford modello T con accensione a manovella e scocca in canapa, lei sfrecciava su una Ferrari testa rossa, Laura! Ciao, scusa, c'ho un po' di tosse, lo smog di città mi ha un attimo fatto venire il mal di gola, ma ora mi ripiglio. Ciao caro, ormai insomma siamo a buon punto, dovresti aver acquisito un po' di nozioni cittadine, eh? Beh sì, ora mi sto già informando sui fuochi di San Giovanni e... Aspetta, aspetta, lo sai che adesso fanno i fuochi ogni 24 del mese? Non solo più, solo a giugno, ti do una notizia in anteprima. Mentre da noi il sindaco ci toglie, i sindaci perché sono più di uno, ci tolgono i fuochi perché dicono che costa troppo, a Firenze si sciala e si fanno una volta al mese, incredibile! Eh sì. Ma non parliamo oggi, o almeno cercheremo di non farlo, di divertimenti e di spettacoli outdoor, sempre per parlare in creolo, e invece ci concentreremo, tenteremo di farlo, sull'indoor, cioè dentro praticamente dove non ci piove, perché ste parole mezze inglesi a volte non si capisce quello che significano. E il primo posto indoor che mi viene in mente pensando a Firenze sono appunto i musei. Firenze ha una quantità industriale di musei, forse ne avrà più Roma o ne avrà più Londra, questione di dimensioni, ma probabilmente in proporzione Firenze è una di quelle città, diciamo nel mondo, che ne ha di più, e ha musei che sono famosi in tutto il mondo, insomma gli Uffizi uno su tutti, ma non è l'unico e forse non è neppure il più importante. Noi qui abbiamo un museo, il Museo della Civiltà Contadina, e si va a vedere un paio di falce arrugginite, ma insomma a Firenze, dalla Venere del Botticelli al David di Michelangelo, andando verso le cose più incredibili, tipo le armature degli imperatori giapponesi dello Stibert, insomma di roba ce n'è da vedere. Laura, i fiorentini vanno a visitare i musei oppure se ne fregano? Allora, siamo i numeri uno al mondo, eh? Questo te lo dico perché ho letto delle statistiche, dei sondaggi, come patrimonio artistico mondiale Firenze è la numero uno, quindi sottolineiamolo. Molte volte diciamo, sì vabbè adesso ci vado, tanto insomma ce l'ho qui dietro l'angolo, e non ci andiamo, e questo atteggiamento insomma si rivela assolutamente sbagliato, perché insomma non perché dietro l'angolo bisogna sempre rimandare, molto spesso le meraviglie del mondo sono proprio più vicine a noi. E allora, passando magari vicino agli Uffizi e vedendo quella coda interminabile di turisti che sta lì ad aspettare ad entrare, e vedendo che sono l'80% giapponesi, insomma una domanda ce la dobbiamo porre, dice, ma perché io ancora non ci sono andata? Ecco, il fiorentino negli ultimi anni ha preso consapevolezza, secondo me, di questo e inizia a frequentare la propria città, complice anche una politica di aiuti, di pubblicità, gratuità per alcuni musei in alcuni giorni del mese. C'è stato negli ultimi anni una maggiore informazione riguardo a tutte le bellezze che ci circondano, bellezze museali. E allora, niente, Uffizi, Cappelle Medice, Museo dell'Accademia, Museo Bardini, il Battistero, insomma, chi più ne ha più ne mette. L'Opera del Duomo è un museo di recente ristrutturazione che è bellissimo. E io ci sono andata e ne sono fiera. Da fiorentina, qual è il primo museo in città che hai visitato nella tua vita cosciente? Ecco. Gli Uffizi ci hanno portato con la scuola, con il professore di storia dell'arte. Non eravamo consapevoli della fortuna che avevamo ad essere lì, ti dico la verità. Non ci avevano formato adeguatamente. Allora, il professore di storia dell'arte mio era un artista, sapeva tutto di tutti, ma non sapeva catturare l'attenzione di adolescenti un po' senza valori. E quindi, insomma, è stata più una scusa per uscire dall'aula che una occasione da sfruttare dal punto di vista artistico. E quando poi ho avuto la consapevolezza di ciò, ho detto, madonna, non ho sfruttato bene la competenza, la preparazione del mio professore. Peccato, perché adesso una guida turistica me la devo pagare. Peccato, no? Si torna lì! Ah già, è vero, ogni tanto ritorna fuori il lato del banchiere fiorentino. Incredibile, è una tendenza medice. Anche perché, per chi non è proprio del settore o chi non è uno studioso di storia dell'arte, parliamoci chiaro, andare a vedere un museo come gli Uffizi senza guida ha poco senso. Per apprezzare veramente ciò che visiti ci deve essere una spiegazione, a mio parere. Con la scuola, noi che abitiamo comunque fuori e quindi c'è da organizzare i bus, i permessi, i genitori, i panini e tutto il resto, si va a vedere, non lo so, nell'arco della carriera educativa che va dalle elementari alle medie, si andrà due o tre volte in totale. Io mi ricordo il Museo della Casa Fiorentina, il classico La Specola per gli animali impagliati e poi manco mi ricordo il terzo. Per quello che riguarda invece le classi e le scuole di Firenze, voi andate più spesso durante l'anno o comunque durante la scuola dell'obbligo? Sì, ti dirò di più, si parte dalla materna. Io ricordo una classe della scuola materna che aveva mia mamma, che insegnava, e aveva fatto diverse gite al Museo dell'Accademia disegnando il David di Michelangelo, insomma, in vari colori e riproducendolo con vari materiali. Quindi la vicinanza alle nostre opere ci aiuta per prendere più confidenza con queste e avere fin da piccoli, poi vabbè, non bisogna fare come noi quando siamo andati agli Uffizi, che insomma non ce ne importava, ma bisogna stare attenti, saper apprezzare appunto quello che ci viene proposto, perché adesso appunto c'è più consapevolezza, ti ripeto, c'è più informazione e quindi anche i bambini fin dalla scuola materna possono apprezzare le opere d'arte, e se gliele proponi nel modo giusto il percorso educativo, artistico parte bene in questo senso. Beh, avete un sindaco che è un musicista e un artista e non è neanche il primo musicista e artista che fa il sindaco di Firenze. Non dimentichiamoci Bocianca, che negli anni 80 era sindaco di Firenze e lui era appunto un musicista. Probabilmente, insomma, tipo il pifferaio magico, vi hanno portato finalmente ai musei e vi hanno un po' sgrezzato anche a voi. Non è che a stare in città, come dire, si acquisisce la scienza così per osmosi. Ma se queste sono le opere vostre, quindi roba che ci avete sotto casa e che è di vostra proprietà, almeno morale, per quello che riguarda le opere o le esposizioni che sostano a Firenze ma che non sono tipicamente fiorentine, e in questo senso mi viene in mente la grande quantità di mostre che vengono organizzate a Firenze, tanto nei musei come nei tantissimi spazi espositivi che ci sono, alcuni bellissimi, tipo Palazzo Strozzi. Io mi ricordo da bambino si veniva a Firenze e c'erano sti striscioni che noi si vedevano solo per la festa del paese o per una gara di ciclismo, e invece c'era sti striscioni, c'era scritto Picasso, Mondrian, archeologia dei vichinghi, e ci sembrava chissà che. Inoltre, a Firenze, per entrare alle mostre, probabilmente ovunque c'è sconti di tutti i tipi. I soci Coop entrano a un prezzo scontato, chi c'ha il conto corrente alla cassa di qui o alla banca di là entra gratis, i biglietti gratis che per le mostre ci sono. Insomma, i fiorentini hanno incominciato ad andare a vedere i musei che prima non visitavano, e le mostre le hanno sempre visitate oppure non hanno mai cominciato a visitare. Sì, sì, sì, le visitiamo, e forse anche più dei musei, sa perché? Perché c'è una scadenza. Allora, questa mostra parte il 1 gennaio e finisce il 30 aprile, allora se te vuoi andare ti organizzi prima, ti organizzi meglio e ci vai. Quel discorso che facevamo prima sul dire vabbè tanto è qui vicino, ci andrò, e poi insomma molte volte uno non ci va mai, per le mostre non vale, perché appunto hanno una scadenza, poi appunto se ci sono gli sconti meglio, no? Sempre per parlare come Cosimo il Vecchio. E mostre ce ne sono, ma Firenze è, in particolare negli ultimi anni, diventata anche un polo teatrale di tutto rispetto. Dico negli ultimi anni perché è stato inaugurato di recente da quel sindaco prima del musicista che poi è finito a Roma, e che è il Teatro dell'Opera, e che dicono, io non l'ho mai visto, ma dicono che l'acustica sia magnifica, ma ci sono anche teatri famosi e storici. Mi viene in mente la Pergola perché l'ho frequentato da ragazzo e l'ho frequentato anche di recente, però ci sono il Verdi e bla bla bla, il Comunale, e arrivano a Firenze artisti famosissimi, dagli attori ai musicisti ai compositori. Addirittura Firenze, insomma, ha il Maggio Musicale Fiorentino, che è una delle organizzazioni, degli eventi musicali più importanti al mondo. Come funziona avere il teatro sotto casa? Ci si va più spesso, è un'alternativa a un sabato che dice madonna ma che noia, al cinema non c'è niente, che si fa? Si va al teatro? Oppure anche quelli sono lì solo per chi li ama, sono lì per gli abitué? Ti ricordi alla Pergola ci siamo andati insieme? Solo anche che voi dal paese siete partiti 3 ore prima, io bella sono venuta già con la pancia piena, che avevo già cenato. E voi vi siete... ecco la differenza. Voi vi siete mangiato un paninaccio così in fretta e furia, perché vi è rimasto anche sullo stomaco, e invece io ero molto più fresca e riposata. In effetti. Però devo ringraziare te e gli altri amici nostri del Val d'Arno che mi proposero quella serata, perché io, ecco, una grande mia pecca è non essere molto amante del teatro. Però, ecco, se te mi dici, guarda, al Verdi c'è, non lo so, chi ci potrebbe essere di famoso? Abbatantuono. Io, cioè, comunque memorizzo l'informazione e la tiro fuori nei momenti in cui devo farmi bella perché sono fiorentina, capito? Allora, se parlo con qualcuno non fiorentino, io glielo dico, guarda che c'è Abbatantuono al Verdi, come dire, insomma, noi siamo un po' il centro del mondo. Oppure, guarda che, insomma, è il teatro, c'è anche il Teatro Niccolini, un nuovo teatro piccolo vicino a Piazza Duomo, insomma, è un gioiello, un chicchino, insomma, magari l'ho visto di sfuggita. Però, ecco, mi piace dire che... che a Firenze abbiamo bei teatri, abbiamo artisti famosi, abbiamo spettacoli interessanti. Anche lì, sai, ci portarono con la scuola al teatro a vedere Pirandello, mi pare. Una noia, mamma mia. Diciamo che le mie esperienze culturali con la scuola non sono state molto positive, però l'ho rivalutata, la visita culturale, la serata teatrale l'ho rivalutata un po' da grande. Sai, da grande poi ti scegli, insomma, le cose che ti piacciono di più. Per rispondere alla tua domanda, sono un po' sì per gli abitué i teatri, insomma, ci sono gli abbonamenti, no? Poi ci sono fiorentini, così come ci siete voi, paesani, che accorrete per l'occasione e siamo tutti uguali. Dai, dentro il teatro, su, facciamo differenze. È perché non si sente parlare. Esatto. No, forse l'unica differenza è che voi avete un po' il panino sullo stomaco, noi no. Vabbè, però. E non ci dimentichiamo che siamo ipervestiti, perché mia mamma, quando mi ci portava alla scuola, alle superiori, al teatro, mi impomatava la testa, mi metteva un papione incredibile, poi le scarpe non ce l'avevamo, quindi venivo con gli zoccoli, si vedeva, insomma, che ero dalla campagna e che, pur elegantissimo dalla vita in su, anche troppo, dalla vita in giù ero piuttosto scarso. E questo, vabbè, insomma, gli impiegati della Petra dicevano: ma che fai, lasci le impronte sui tappeti, ma da dove vieni? Ma magari con le luci soffuse del teatro nessuno se ne accorgeva, dai, ti camuffavi bene. Forse era l'odore, sai, con gli zoccoli. E siccome Firenze ha una tradizione di sindaci musicisti, dai, diciamolo, ci sta simpatico. Ci sta sempre bene. I concerti a Firenze, non solo quelli importanti di opera lirica o di musica classica, ma anche i concerti, quelli un po' più sprint, quelli da Jovanotti a The Doors, ai Pink Floyd, ah non, ora The Doors sarà difficile che siano venuti, però insomma, fatto sta, grandi concerti, grandi sale concerto, e poi una pubblicità martellante sui giornali più letti della Toscana, che non è La Nazione ma è il giornalino della Coop, e sul giornalino della Coop Jovanotti, Pupo, i ricchi e poveri, c'è di tutto, insomma, questi grandi concerti, questi grandi artisti che attirano forse più gente del Maggio Musicale Fiorentino in proporzione. Voi che di nuovo li avete dietro l'angolo, al di là del casino che faranno e chiamate i carabinieri per farli smettere, ma ci andate più spesso, ci andate più spesso di noi, sì. Sono eventi che tenete molto in considerazione. Sì, innanzitutto per The Doors, insomma, per i miracoli ci dobbiamo ancora attrezzare, però... Non è Roma, non è Roma. Proviamo un po'. Allora, sì, vedi, Jovanotti ha fatto in questo mese di marzo, ha fatto 9 date, insomma... Una cosa incredibile, come si fa a riempire un palazzetto per 9 giorni quasi consecutivi nella stessa città, boh, non lo so come avrà fatto, però ecco, vuol dire che il bacino d'utenza è grande. Allora, ti racconto un aneddoto di quando ancora non c'erano i cellulari che facevano le foto. Io e una mia amica andammo a vedere i Litfiba, che all'epoca erano ancora uniti. Che sono tuoi vicini di casa. Miei vicini di casa, Piero Pelù, insomma, mio dirimpettaio. Allora... eravamo fan accanite di Piero Pelù e riuscimmo, non so come, a entrare nel camerino e per farci una foto. E cosa fece però la mia amica, che si era portata una macchina fotografica? Poi dopo si accorse che non aveva messo il rullino. Tragedia, tragedia. Allora, che cosa abbiamo fatto noi? Siccome in Litfiba facevano 2 o 3 date, ci siamo tornati il giorno dopo. Allora, per voi non sarebbe stato possibile riorganizzarvi per tornare il giorno dopo. E siamo riusciti a entrare in un'associazione di beneficenza che chiedeva appunto delle offerte per i malati, non mi ricordo di quale malattia, quindi siamo entrati gratis di nuovo al concerto, perché insomma, da belle ragazzine giovani e spregiudicate, insomma, siamo riusciti a fare questo, e siamo riusciti a entrare di nuovo nel camerino di Piero Pelù e farci una foto, stavolta con la macchina fotografica a posto. Quindi insomma, la vicinanza a Campo di Marte ci ha aiutato molto, altrimenti insomma sarebbe stata una tragedia. Sicché poi, entrando appunto a far parte di questa associazione, e quindi unendo il fatto che facevamo beneficenza a non pagare il biglietto, i concerti sono stati veramente una parte importantissima della mia adolescenza e anche successivamente, perché ci andavo molto molto spesso. Vuol dire, insomma, poterci arrivare in un quarto d'ora anziché in 2 ore. È come li riconosci, fiorentini da non fiorentini? I non fiorentini sono lì davanti che fanno la fila per, non solo per entrare al concerto, ma prima fanno la fila per mangiare lo dog. Il panino! Il famoso panino ritorna. Ritorna anche a gola, insomma, dopo un paio di ore. Ritorna a gola, sì. E poi noi ci andiamo a motorino, capito? Non è che dobbiamo fare tutta la fila per uscire dal caos. Noi arriviamo a motorino, ce ne andiamo a motorino e siamo a posto, insomma, ce lo godiamo bene il concerto. Noi oltretutto si rischia di trovare i carabinieri sulla via del ritorno e un paio di bicchieri di troppo a qualcuno fanno saltare la patente. E... l'ultimo aspetto che gradirei trattare e di cui gradirei sapere che i miei amici conterranei, conterronei direi, visto le nostre origini, siamo curiosi di sapere, e cioè gli sport. Siamo molto bassi. Sport indoor, perché non si gioca solo fuori, insomma, Firenze non dimentichiamo che c'ha pure una squadra di football americano, ma gli sport dentro, e poi i più sono americani lo stesso, e per esempio il basket, la pallavolo, ma anche altri sport, la boxe, il pattinaggio, la ginnastica. Firenze ospita non solo squadre importanti e squadre di livello, tanto maschili che femminili, quindi di livelli da prima o seconda divisione, ma addirittura ospita eventi mondiali come campionati, oppure a livello anche più basso, europei, italiani. Ecco, questi sport indoor, che non sono famosi come quelli outdoor, perlomeno dalle pagine che occupano sulla Nazione, invece i fiorentini come li vivono, come li vedono? Allora, il bello di stare a Firenze è che te puoi scegliere di fare lo sport che vuoi. Molto spesso nel paese sei un po' obbligato, no? Dalla vicinanza a una squadra di pallavolo anziché di basket. Chiaro. Insomma, poi se tu volessi fare baseball magari c'è un po' di difficoltà logistica, invece a Firenze c'è tutto, c'è anche il baseball, c'è tutto. Sai che cosa c'è anche? Il rugby subacqueo. Il rugby subacqueo a Firenze è un'eccellenza, siamo anche abbastanza forti. Sia e dove lo giocano? Nell'Arno? No, in piscina. Sia il maschile che il femminile, quindi a Firenze fai veramente di tutto. E sai anche un'altra cosa molto molto interessante? Allora, se ti scocci, io ti parlo della mia esperienza, no? Allora, io ho giocato anni e anni a pallavolo e a un certo punto mi sono scocciato, ho detto vabbè, voglio andare a giocare a tennis. Poi però mi ha ripresa voglia di pallavolo, mi ero un po' annoiata però degli allenamenti seri, dell'agonismo, allora ho ripiegato sul misto, che in paese, insomma, è difficile trovarlo vicino casa. Il misto è quando in campo a pallavolo scendono tre uomini e tre donne. Pensa. Capito? E allora c'è proprio la varietà, c'è la scelta, l'imbarazzo della scelta su quale sport e come farlo. E si partecipa, o perlomeno si parla in città, dei grandi eventi sportivi? Mi viene in mente qualche mondiale, dal mondiale di ciclismo, che però non era indoor, a tanti altri tipi di competizioni che a Firenze spesso ci sono e sono di altissimo livello. Sì, sì, tipo io giocavo a pallavolo, spesso andavo a vedere anche le partite di pallavolo dell'Italia che ospitava il nostro palazzetto, quindi anche a seconda dello sport che ti piace trovi da essere spettatore di partite di alto livello, no? Guarda, dal punto di vista sportivo non ci manca niente. Eh sì, voi ospitate pure le nazionali quando giocano, è vero. E d'altra parte avete pure la sede a Firenze della Lega di Serie D, che è quella che tesserà la stragrandissima maggioranza degli italiani rispetto ai professionisti che sono a Roma. E beh, l'ultimo presidente della FIGC veniva appunto da Firenze, non che era fiorentino, ma insomma veniva da Firenze perché era presidente di quella organizzazione. Ma del calcio, ma della passione dei fiorentini par excellence non ne parleremo oggi, ne parleremo in un'altra occasione, magari la prossima. Nel frattempo ringraziamo Laura di averci dato il suo tempo preziosissimo, rubato a contare i quattrini rubati ai turisti. E Laura, non te ne rubo altro, non te ne rubo altro, perché ti devi preparare, ti devi vestire, devi prendere il treno per venire al teatro stasera alle 9. Dai, inizia a preparare. Mangerò il panino ora, che perlomeno l'avrò già digerito. Ringraziamo, oltre a Laura, anche gli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno seguito fino a qui. Ricordatevi che ora è periodo di semina, quindi per chi non è in città, o magari chi è in città semina la roba buona nascosta nei terrazzini in alto sugli abbaini del centro. Laura, grazie. A te. E grazie ai nostri ascoltatori, e alla prossima fiorentinata. Olè. Olè.